Salva Danaio con Valeria De Rosa. Buongiorno, ben ritrovati, sono le 12 e 16 minuti, oggi è mercoledì e oggi a Salvadanaio parliamo di detrazioni fiscali del 36% che si può detrarre, vedremo per quali tipi di lavori, che tipo di ristrutturazioni, ordinarie e straordinarie, chi le fa, quindi il condominio, il privato, cercheremo di rispondere a tutte le vostre domande e ai vostri dubbi, i vostri quesiti, 349-238-6666 per i vostri sms, 800 24 00 24 invece il numero verde attraverso il quale potete contattarci proprio in diretta. Velocemente andiamo a vedere che cosa sta succedendo sui mercati. Un avvio piuttosto debole questa mattina per le piazze del vecchio continente dopo la chiusura contrastata dell'Asia, dove Tokyo ha chiuso in progresso mentre Seoul e Hong Kong hanno chiuso in ribasso. In questo momento però le piazze europee si sono leggermente rafforzate, Parigi guadagna poco più di mezzo punto percentuale, Francoforte lo 0,34%, Londra lo 0,42%. Milano si è allineata per qualche ora, è riuscita a fare meglio, anche molto meglio delle altre piazze europee, il FTSE All Share guadagna lo 0,52%, il FTSE MIB lo 0,54%. In evidenza quest'oggi a Piazza Affari il settore bancario, il miglior titolo resta Monte dei Paschi di Siena che guadagna il 2,3%, seguito dalla Banca Popolare di Milano che guadagna l'1,84%, Unipol guadagna l'1,76%, ritracciano leggermente Intesa San Paolo che guadagna l'1,40% e Unicredit che guadagna uno 0,80% circa. Sono stati comunque titoli premiati durante la mattinata dal mercato in seguito alle decisioni adottate ieri sia da Unicredit che da Intesa San Paolo, per entrambe il no ai Tremonti Bond e invece altre vie per rafforzare il proprio patrimonio. Unicredit ha varato un aumento di capitale complessivo fino a un massimo di 4 miliardi, per Intesa San Paolo strumenti ibridi per 1,5 miliardi circa. In fondo al listino il peggior titolo è Campari che cede poco più di un punto, Autogrill cede l'1%, Mediaset lo 0,88%, Buzzi Unicem lo 0,58%. Per quel che riguarda i cambi, l'euro viene scambiato 1,46,62 sul dollaro e questo per quanto riguarda i mercati. Oggi, come già detto in apertura di programma, parliamo delle detrazioni fiscali del 36% e lo facciamo come sempre in compagnia di illustri ospiti. Marco Zandonà, direttore dell'ufficio fiscalità edilizia dell'ANCE ed esperto anche di questioni fiscali per il Sole 24 Ore, che saluto, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a tutti. E poi il collega del Sole 24 Ore, Saverio Fossati, che saluto da casa. Buongiorno anche a te, Saverio. Buongiorno a tutti. Prima però di tirare in ballo proprio i nostri ospiti, ascoltiamo la nostra scheda. Più tempo a disposizione per chi è alle prese con lavori di manutenzione e ristrutturazione. Il governo ha deciso infatti di prorogare la detrazione del 36% fino al 2012. Il beneficio sul quale calcolare la detrazione spetta fino al limite massimo di spesa di 48.000 euro da suddividere in 10 anni. Limite che dal 1 ottobre 2006 si riferisce alla singola unità immobiliare e non più ad ogni persona fisica che abbia sostenuto le spese. Tuttavia, i contribuenti di età superiore a 75 e 80 anni possono suddividere la detrazione rispettivamente in 5 o 3 rate annuali. I lavori per i quali spettano le agevolazioni fiscali riguardano le spese sostenute per eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria, le opere di restauro e risanamento conservativo e i lavori di ristrutturazione edilizia per i singoli appartamenti e per gli immobili condominiali. Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi all'agevolazione IRPEF solo se riguardano determinate parti comuni di edifici residenziali. Per fruire della detrazione del 36%, i contribuenti sono tenuti ad inviare una comunicazione di inizio lavori all'Agenzia delle Entrate. È inoltre necessario che le spese detraibili siano pagate tramite bonifico bancario o postale. allora avete sentito nella nostra scheda quali sono tutti i passaggi da dover formalizzare, da dover effettuare, tutto ciò che viene richiesto. Io però volevo subito chiedere al collega Fossati più che altro una considerazione proprio da giornalista. Questa detrazione era attesa questa proroga, forse in pochi ci speravano, ma la copertura poi alla fine in una finanziaria così leggera c'è, possiamo stare tranquilli? Dunque, in realtà la finanziaria ha addirittura anticipato di un anno la scadenza precedente e ha dato una proroga quindi in realtà di 2 anni rispetto a quella che era la scadenza iniziale, perché questa agevolazione, che dura dal 1998, è stata sempre continuamente prorogata di 1 anno o 2 anni. E hanno voluto evidentemente dare un grosso segno di incoraggiamento a uno dei settori italiani più in difficoltà, che è quello dell'edilizia. Quindi certo, lo scopo è politico ed economico ed è abbastanza chiaro. La copertura è sempre stato un problema per questo tipo di attività, perché la copertura dovrebbe provenire prevalentemente dalle attività edilizie in nero che dovrebbero emergere proprio al fatto che il committente, anziché commissionare il lavoro senza fare fattura per risparmiare l'IVA, lo commissiona con la fattura, perché comunque, a parte che l'IVA è agevolata il 10%, sì, comunque poi ci guadagni il 36%, quindi per arrivare in pari, diciamo, con lo sconto offerto dallo Stato, l'impresa che vuole lavorare in nero dovrebbe offrire uno sconto talmente enorme che non gli converrebbe più. Quindi però questa speranza che si trascina dal 1998, stando agli scarsissimi dati forniti occasionalmente dall'Agenzia delle Entrate, non si è mai propriamente avverata, quindi è rimasto più che altro questo tipo di agevolazione un incentivo, una leva per il settore edilizio, più che una speranza appunto avverata di recuperare il nero. Allora, dottor Zandonà, partiamo, diciamo così, dal principio, cerchiamo di fare ulteriormente ordine per far capire a tutti quelli che ci stanno ascoltando di che cosa si tratta, anche se appunto dicevamo è una misura introdotta nel 1998 e poi ci se ne è avvalsi nel corso di questi anni. Di che tipo di ristrutturazioni stiamo parlando? Parliamo innanzitutto di tutti gli interventi diciamo più incisivi che vengono fatti sulle singole unità immobiliari, cioè all'interno delle abitazioni, quindi parliamo di manutenzione straordinaria, di restauro e di ristrutturazione edilizia. Per invece le parti comuni condominiali è agevolata anche la semplice manutenzione ordinaria, quindi la riparazione o anche la ritinteggiatura della facciata senza fare lavori edili importanti è comunque agevolata se fatta sulle parti comuni condominiali. Ecco, tanto per essere ancora e ulteriormente più chiari, all'interno della propria abitazione che cosa possiamo ritenere ristrutturazione ordinaria e che cosa straordinaria? E la manutenzione ordinaria, che non è agevolata appunto nelle singole unità immobiliari, ad esempio la tinteggiatura delle pareti, sì, mentre la manutenzione straordinaria quando io rifaccio il bagno, ma completamente, comprese le tubazioni, se io cambio solamente le mattonelle, i sanitari, è manutenzione ordinaria non agevolata. Se invece intervengo proprio facendo anche le tubazioni, quindi un rifacimento completo del bagno, sicuramente è agevolato. E così se rifaccio l'impianto elettrico è sicuramente agevolato, perché dovendo intervenire su tutto l'appartamento, quindi facendo le tracce sostanzialmente dell'impianto elettrico, allora anche questo è intervento di manutenzione straordinaria, ecco, quindi agevolato. Per quanto riguarda invece gli infissi, perché c'è qualcuno che poi ci chiede anche conto della detrazione del 55%, sì, questi come li dobbiamo catalogare, come straordinari o ordinari? La sostituzione degli infissi generalmente dipende molto dal regolamento edilizio del comune in cui è sito il fabbricato. Generalmente l'intervento di sostituzione degli infissi, se cambiano anche i materiali, allora è un intervento di manutenzione straordinaria. Se invece è una sostituzione con un infisso dello stesso materiale, è manutenzione ordinaria. Okay. Poi però ovviamente oggi c'è anche l'agevolazione, come diceva, del 55%, che se hanno determinate caratteristiche energetiche posso fruire in alternativa dell'agevolazione del 55%. Saverio, proprio a questo proposito, perché c'è un ascoltatore che ce lo chiede in maniera particolare, particolare. Se appunto vale ancora questa agevolazione del 55%, l'ascoltatore ce lo chiede perché a sua volta si chiede: con la crisi che c'è in corso magari non è più così o non sarà più così, oppure ci sono appunto dei problemi anche in questo caso di copertura? No, l'agevolazione era stata fissata dalla finanziaria precedente e vale fino a tutto il 2010, quindi non c'è nessun problema per chi esegue i lavori entro il 31 dicembre 2010 per avere la detrazione del 55%, seguendo la consueta procedura. Cioè, non siamo qui adesso a rispiegare. Ecco, perciò c'è. Perché non è stata già prevista, diciamo, in questo disegno di legge finanziaria come è stato fatto per il 36%? Perché, come dicono i numeri stessi, il 55% piace molto, è stato sfruttato parecchio negli anni scorsi e per lo Stato ha un costo veramente spaventoso. Allora, insomma, difficile che ci sia una proroga anticipata addirittura di questa misura. Però fino alla fine dell'anno prossimo siamo a posto. Vale per tutti quelli che vogliano fare questo cambiamento all'interno della propria abitazione. Saluto Antonio da Varese, buongiorno. Buongiorno. Ci dica. Avrei questo quesito. Nel nostro condominio si faranno dei lavori sulle parti comuni. Lavori di manutenzione straordinaria che avranno diritto al 36% di bonus fiscale. Contemporaneamente io avrei intenzione di eseguire dei lavori sempre di manutenzione straordinaria all'interno della mia abitazione. È necessario fare due comunicazioni diverse al centro di Pescara o basta una cumulativa, trattandosi anche di due imprese diverse che seguono i lavori? Allora, io giro la sua domanda, signor Antonio, al dottor Zandonà. In questo caso come bisogna muoversi, in che modo? Dunque, per la parte, per gli interventi sulle parti comuni condominiali, se c'è un amministratore, la pratica e la domanda al centro operativo di Pescara va fatta sempre preventivamente all'inizio dei lavori dall'amministratore. Se non c'è chiaramente l'amministratore, perché sono meno di 5 condomini, sostanzialmente la può fare uno dei condomini o dei comproprietari in nome e per conto di tutti gli altri. Per invece interventi sulla singola unità immobiliare di proprietà privata va fatta un'autonoma domanda, perché l'agevolazione spetta in misura doppia, sia per i lavori sulle parti comuni, ovviamente in base alla tabella millesimale di comproprietà delle parti comuni, che ovviamente per i lavori eseguiti all'interno dell'unità immobiliare. Però sono due domande diverse, due domande distinte e separate. Sono le 12.34, stiamo parlando di detrazioni fiscali per il 36% per la manutenzione straordinaria. Prima però una brevissima parentesi per aggiornarvi su quello che sta succedendo nel mondo. Si era parlato di un allarme per nuove forti scosse, infatti qualche istante fa le agenzie hanno battuto un'agenzia per cui si è registrato un terremoto di magnitudo 7.9 nell'arcipelago indonesiano Sumatra. Ovviamente Sumatra è molto molto distante da Samoa, però questo sta succedendo in questo istante. Vi terremo ovviamente aggiornati su quanto accadrà e quindi sui possibili sviluppi. Torniamo a noi, torniamo ai nostri ospiti e soprattutto ai nostri ascoltatori. Ezia dalla provincia di Milano, buongiorno, benvenuta. Buongiorno. Ci dica. Senta, io ho ristrutturato il mio appartamento nel 2004 ed ho speso circa 48.000 euro. Durante gli anni seguenti sono state fatte ristrutturazioni da parte dell'amministratore del condominio, esempio balconi, facciate, persiane. Queste spese, pur essendo la DIA fatta da me diversa da quella dell'amministratore, possono essere considerate nel tetto dei 48.000 oppure li segno in un in una richiesta a parte? In una richiesta a parte, sempre sull'unico o su 730. Allora, dottor Zandonà, che succede in questo caso? Ovviamente sono lavori fatti in anni diversi. Sì, sicuramente la signora ha fatto i lavori nel 2004, quindi già in sede di dichiarazione dei redditi a partire dalla dichiarazione 2005 o 730, un modello unico, avrà compilato ovviamente un rigo, diciamo, dell'apposito spazio in cui ha l'agevolazione nei limiti massimo di 48.000 euro in 10 rate e quindi in 10 anni si recupera il 36%. Per i lavori condominiali chiaramente è un intervento di carattere diverso, l'amministratore ha fatto tutti gli adempimenti e ogni anno rilascia sostanzialmente direttamente ai condomini una comunicazione con l'importo che gli spetta da detrarsi in dichiarazione. Per quest'altro tipo di intervento si compila un altro rigo dello stesso quadro della dichiarazione dei redditi relativa al 36%, in cui si indica l'importo chiaramente spettante e la rata, anche quella in 10 rate, si recupera quell'importo. Quindi sostanzialmente possiamo dire che la signora può sommare. Certo, sì. Ecco. Raddoppia. Perfetto. Buongiorno anche ad Aldo dalla provincia di Caserta. Buongiorno a voi e grazie per il servizio che rendete. Grazie a lei, ci dica. Una domanda un po' complicata. Mia figlia è proprietario di una piccola villetta in un comune limitrofo al mio, dove ha la residenza. Ora devo rifare urgentemente però il tetto. Comunque mia figlia ha lasciato questa casa anche perché studia in un altro comune lontano, a Firenze, tanto per intenderci, per ragioni universitarie. Quindi materialmente non convive con me, né sta nel mio stato di famiglia. Per questi lavori, che sono circa sui 70.000 euro e tutto il resto, siccome i bonifici e i soldini li verso io, posso io fruire sul mio 730 di questa agevolazione? Quindi se ho capito bene... Chiedo scusa, sì. Mia figlia comunque è a mio carico. Ah, quindi ho capito, però l'appartamento è di proprietà di sua figlia, giusto? Esatto. Allora, Saverio, in questo caso appunto un po' complesso, che cosa succede, come funziona? Succede che lei non è una familiare convivente. Cioè lui non è un familiare convivente con la figlia, perché il problema è che bisogna fare un po' riferimento ai proprietari dell'immobile. Sì. O ai familiari conviventi dei proprietari dell'immobile. Sì. Ma per me l'ostacolo di base è nel fatto che lei comunque che il padre comunque non convive con la figlia, anche se la figlia vive da un'altra parte. Questo non è un ostacolo, perché lei è comunque proprietaria, sì, di quell'appartamento. Non è obbligatorio abitare nell'appartamento da ristrutturare. Sì. Il problema è essere proprietari o familiari conviventi del proprietario. C'è anche l'unica soluzione, secondo me, è che lei torni ad abitare in casa del padre. Ho capito. L'unica soluzione, credo, per fare le cose in modo lineare è quello. Lei torna ad abitare a casa del padre, per cui sono familiari conviventi, sì, in un certo appartamento, sì, e lei possiede questo altro appartamento. Però vorrei sentire anche cosa ne pensa, certo, il dottor Zandonà. Altrimenti dovrebbe comunque dichiararli la figlia, e anche se poi è il padre. Con la figlia poi non può dichiarare nulla, perché lei avrebbe l'incapienza, cioè non può spendere 10.000 euro se è a carico, 10.000, 20, 40.000 euro. Certo. A carico del padre, non ce la fa poi a detrarli. Allora, dottor Zandonà, è d'accordo con questo? No, sono d'accordo con Fossati, e c'è anche un'altra soluzione, sì, cioè stipulare un contratto di comodato in questi casi tra figlia e padre, comodato che deve essere registrato, ma ciò deve avvenire prima dell'inizio dei lavori, certo, in modo che il padre può mandare la comunicazione al centro operativo di Pescara prima dell'inizio dei lavori a suo nome, in quanto comodatario dell'appartamento. Perché il 36% spetta anche al locatario o al comodatario, però deve essere un contratto debitamente registrato, certo, i cui estremi di registrazione devono essere indicati nel modello da inviare a Pescara. Angelo da Milano, buongiorno. Buongiorno, la mia domanda è una domanda veloce. Io devo cambiare la caldaia di casa, sì, io abito in una villettina, devo cambiare la caldaia, voglio abbattere per una questione di costi e anche risparmio energetico. Volevo sapere se potevo accedere alla detrazione. Alla detrazione, esatto, e in che modo eventualmente. Ho capito. Se devo farla via, avvisare prima. Allora, dottor Zandonà, in questo caso si tratta solo di, diciamo così, del semplice cambio della caldaia. Dunque, se si tratta di una sostituzione della caldaia con una condensazione, conviene più il 55%, perché ovviamente deve essere una caldaia con determinate caratteristiche, perché l'agevolazione è più importante e soprattutto che però deve avere dei valori di trasmittanza termica specifici. Se sì, invece non rientriamo in questi valori, allora si può applicare sicuramente il 36%, l'agevolazione minore si recupera in 10 anni, non serve la TIA, perché in genere la sostituzione della caldaia è un intervento che comunque favorisce, essendo la caldaia nuova, un risparmio energetico rispetto a precedente, e l'intervento è agevolato a prescindere prescindere dalla qualificazione urbanistica e quindi non serve la DIA e si fanno le comunicazioni. Serve però ovviamente un attestato dell'installatore che specifica quali sono le caratteristiche tecniche della caldaia. Carmelina da Firenze, buongiorno e benvenuta anche a lei. Buongiorno. Ci dica. Senta, io ho una situazione quasi fotocopia di quella del, del signore che ha parlato due minuti fa, non sì. L'ultimo, il penultimo. Sì, il signor Aldo. Io ho comprato un appartamento a mia figlia. Mia figlia non lavora. Questo appartamento si deve ristrutturare completamente, un preventivo di 70.000 euro. Io però non sono convivente con mia figlia, né mia figlia è convivente con me, ma non ha un lavoro appunto. Sentivo del fatto del comodato, sì. Potrei fare quello, però nel fare il comodato io devo fare la residenza, trasferire nel nuovo appartamento o posso mantenere la residenza nel mio appartamento? Allora, in questo caso, dottor Zandonà, che succede? Che si fa? Non si deve trasferire la residenza perché l'agevolazione spetta non solo per la prima casa, per l'abitazione principale, cioè il luogo in cui uno risiede, l'appartamento in cui si risiede, ma spetta ovviamente anche alla seconda, alla terza, alla quarta casa, quindi tutte le case a disposizione. Se si fa un comodato ovviamente la casa può essere anche in un comune diverso da quello di residenza, però in quanto comodatario, quindi è a disposizione del genitore in questi casi e a suo nome fa tutta la pratica, si intesta le fatture e ovviamente fa i bonifici e fruisce della detrazione. Ecco, la domanda della signora Carmelina e la conseguente risposta del dottor Zandonà ci ha dato anche la possibilità di rispondere a un sms che è arrivato al 349-238-6666 del signor Gigi da Parma, il quale chiedeva se la detrazione del 36% fosse solo per la prima casa o anche per la casa di vacanze. Quindi sembra ormai chiaro che questa vale anche per tutte le altre case di proprietà e quindi non solo per la prima casa. Claudio da Vercelli, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. La mia domanda è questa. Io ho comprato una casa insieme a mio fratello, o meglio, ognuno ha comprato un appartamento, uno al piano di sopra, uno al piano di sotto, sono due unità abitative. Adesso ci dobbiamo ovviamente fare i lavori, ognuno all'interno del proprio alloggio, ma in più dovremmo fare anche il cappotto esterno e rifare il tetto. Quindi il cappotto esterno e il tetto, come possiamo usufruire del 36 o del 55%, visto che non è un condominio? Allora, Saverio, in questo caso come funziona? Funziona allo stesso modo o ci sono delle altre procedure? Dunque, siccome loro hanno comprato hanno comprato separatamente due unità immobiliari. Sì, due soluzioni abitative, sì. Allora, anche se loro non se ne rendono conto, ma in realtà il condominio esiste, perché il condominio esiste ogni volta che ci sono delle parti comuni, sì. E l'edificio ha più di una unità immobiliare. Siccome il tetto e presumibilmente un ingresso o un vialetto d'accesso sono parti comuni, il tetto sicuramente, cioè il tetto non è del piano di sopra, sì. Il tetto copre tutte e due, quindi quello è sicuramente una parte comune. Allora loro devono fare una pratica del 55%, dato che si tratta di anche le pareti esterne naturalmente sono parti comuni, sì, certo. Tra l'altro. Mm. Quindi cappotto e isolamento del tetto sono il tipico lavoro da parti comuni condominiali che beneficiano del 55%. Non c'è niente di particolarmente complicato nel farlo perché, dato che non è obbligatorio nominare un amministratore quando gli appartamenti sono meno di 4, ciascuno dei due può semplicemente seguire separatamente la pratica, convocando un termotecnico, facendo poi eseguire i lavori e comunicando la solita relazione tecnica all'Enea, come è previsto dalla legge. Dopodiché le spese, naturalmente tutte pagate con bonifico, saranno attribuite per quanto riguarda l'agevolazione a ciascuno dei due in quanto condomini del mini condominio. Certo. E sarà una riga a parte dentro nel modello 730 o unico che si aggiunge a quella che loro riempiranno da 36% invece relativamente ai lavori che stanno eseguendo nei singoli appartamenti. Nei singoli appartamenti. Anche questa domanda mi dà lo spunto per girare un sms che è arrivato. Manutenzione di tetti o comignoli senza DIA. In questo caso è possibile la detrazione del 36%? Dottor Zandonà, non credo, penso che la denuncia alla DIA sia necessaria comunque. Ma se è una semplice riparazione o manutenzione ordinaria, come abbiamo detto, essendo una parte comune, non serve la DIA, perché la DIA serve a partire dalla manutenzione straordinaria. Quindi potrebbe non essere sufficiente. Se è un intervento di coibentazione, quindi ben più rilevante, sicuramente passiamo alla manutenzione straordinaria e la DIA serve. Quindi. Allora, ci sono degli ascoltatori che aspettano per intervenire, prima però volevo risolvere con il collega Saverio Fossati alcune come dire, piccoli dettagli che però possono essere importanti da ricordare per tutti. Saverio, questa detrazione del 36% si spalma su 10 anni, giusto? Sì, tranne che per i 75enni e gli 80enni che possono spalmarla rispettivamente in 5 e 3 anni. Ecco, quindi solo per chi ha raggiunto questo limite di età potrà poi appunto ridurla in 3 o 5 anni, però per tutti gli altri valgono i 10 anni. Sì. E poi altra cosa che forse è importante ricordare, se non si sfrutta una o più rate di detrazione, che cosa succede per le successive? È possibile comunque recuperarle? Sì, recuperano tranquillamente, non ci sono problemi. Rimborso e buonanotte. Perfetto. Paolo da Brescia, buongiorno, benvenuto anche a lei. Eh sì, buongiorno. Ci dica. Ascolti, io sono proprietario di un appartamento in un condominio, un grande condominio a forma quadrata con 20 unità immobiliari. Abbiamo già finito una ristrutturazione tetto e facciate, per cui con una spesa abbastanza sostanziosa, se non vado errato, circa 130.000 euro di spesa. E quando c'è stato davvero la dichiarazione per la detrazione del 36%, ho scoperto che o l'amministratore o il geometra si è dimenticato di dire che c'era un tetto massimo di un importo, così noi ci siamo trovati che non possiamo detrarre tutti i soldi che ognuno di noi ha messo nella ristrutturazione, ma solo una parte. Volevo sapere se c'era Però credo, signor Paolo, che questa sia una procedura corretta. Dottor Zandonà? Sì, per i lavori sulle parti comuni condominiali, quindi in questi casi tetto e facciate, il limite dei 48.000 euro va considerato con riferimento a ciascun appartamento. Quindi se sono in questi casi, se non ho capito male, 20 appartamenti, moltiplico il limite massimo di 48.000 per 20. Quindi sicuramente ciascun condomino, se la spesa è stata a 130.000 euro, divisa in base alla tabella millesimale, sicuramente ciascuno recupera in 10 anni il 36% di questo importo. E che cosa si può fare in questo caso, visto che l'amministratore di condominio non ha specificato che il tetto valeva per ciascun appartamento? L'amministratore avrebbe dovuto prendere l'importo spettante a ciascun condomino, tenuto conto di questa moltiplicazione. Se in questi casi non è stato fatto, quindi per esempio uno si è detratto una rata di minore importo, allora per le rate successive l'amministratore può correggere. Per la rata chiaramente di cui si è fruito di meno, di questo 36%, si fa una richiesta all'Agenzia delle Entrate, ai sensi, c'è una normativa speciale, l'articolo 38 del DPR 602, che si può fare un'istanza entro 48 mesi dal momento in cui è stata presentata la dichiarazione dei redditi per chiedere il rimborso della maggiore detrazione. Quindi comunque è possibile correre ai ripari. Sicuramente. Filippo dalla provincia di Ferrara, buongiorno anche a lei. Sì, buongiorno. Ci dica. Sono di Padova, ero a Ferrara. Volevo fare due domande. Allora, intanto io devo restaurare il tetto della mia casa, no? Sono 4 unità abitative. Devo mandare la dichiarazione di inizio lavori al centro di Pescara solamente per il mio appartamento o per tutto l'immobile? E poi volevo chiedere, lo sgravio fiscale del 36% per la manutenzione ordinaria, fino a quando è valido? Allora, Saverio, che cosa deve fare il signor Filippo? Allora, loro sono appunto 4 appartamenti, quindi anche loro non hanno l'obbligo di avere un amministratore. Certo. Quindi ciascun condomino individualmente può accollarsi l'onere, non particolarmente complesso, di fare la pratica per conto di tutti gli altri, che è la soluzione più lineare, più semplice. Sì. Paga, fa i bonifici per conto di tutti gli altri, raccoglierà i soldi, come del resto già faranno, immagino, per le spese ordinarie, e poi farà la suddivisione fra i 4 appartamenti quando avranno finito di fare i lavori e si tratterà di calcolare la detrazione. Sì. Per quanto riguarda invece i termini, ricordiamoli un'altra volta, perché così è chiaro per tutti. Fino al 2012, quindi c'è tutto il tempo. C'è tutto il tempo per fare i lavori. Sì. Oddio, è nella finanziaria va ancora approvata. Vabbè, noi però vogliamo essere ottimisti, sì, e fiduciosi, e insomma sperare che poi di per sé venga approvata tutta la manovra e quindi anche la misura in questione. Mauro dalla provincia di Firenze. Eccomi, buongiorno. Buongiorno a lei. Dunque, la domanda è questa. Io dovrei sempre Firenze rifare un tetto, però ho ottenuto contestualmente una concessione edilizia per un aumento di volumetria, in pratica mi alzo di un piano, in una casa diciamo singola dove sotto c'è mio suocero e sopra ci sono io. Se ho ben capito, posso ottenere la detrazione del 55% per il rifacimento di tetto e solaio, perché il tetto è decadente e otterrei diciamo una considerevole risparmio di energetico, oppure devo seguire la regola del 36%? Allora, dottor Zandonà, qui ci sono due operazioni in una che deve fare il signor Mauro. Sì, innanzitutto diciamo sotto il profilo generale che l'aumento di volumetria non, sì, gode né del 36% né del 55%, ed è un forte limite questo sicuramente, che, certo, andrebbe corretta, almeno a mio avviso, e quindi diciamo l'agevolazione non si applica nel caso di specie. Tuttavia, se nei lavori si riesce a tenere distinto le spese di volumetria, ma è molto difficile questo a farsi, rispetto alle spese di rifacimento del tetto nel caso specifico, allora per questa parte di spese tenute separate si potrebbe applicare il 36%. Però ovviamente se il tetto sta alla fine dell'aumento di volumetria, sicuramente l'amministrazione finanziaria contesterebbe l'applicabilità dell'agevolazione. Allora, la signora Tina da Genova, le chiedo però di essere veramente velocissima perché abbiamo gli ultimi 30 secondi. Grazie, buongiorno. Volevo sapere se la messa in sicurezza di balconi, due balconi della del nostro appartamento, sì, è da considerarsi spesa ordinaria o straordinaria? Saverio, a te l'ultima parola. È sicuramente manutenzione straordinaria, non è tanto messa in sicurezza quanto probabilmente il rifacimento delle parti ammalorate che addirittura rischierebbero di far cadere giù il proprietario. Comunque manutenzione straordinaria. Grazie ai nostri ospiti, il dottor Marco Zandonà, direttore dell'ufficio fiscalità edilizia del Lance e esperto di questioni fiscali per il Sole 24 Ore, grazie per essere stato con noi, e grazie anche al collega del Sole 24 Ore Saverio Fossati. Io ringrazio in redazione Gaia Romani, Alessandro Longoni, in regia Carmelo Lauricella. L'appuntamento con Salva Danaio per domani dopo il GR delle 12. Salva Danaio.